versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16.36, primi 30 secondi, quindi diretta dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per proposte, critiche, temi da trattare, ospiti. Vado subito al punto perché oggi abbiamo cominciato con altri due minuti di ritardo. Le notizie di giornata non sono positive per l'economia, perché forse avrete già sentito, l'OCSE ha abbassato le stime di crescita italiane per il 2014 a un -0,4%, quindi resteremmo l'unico paese del G7, esattamente come nel 2008, ad essere ancora in recessione questo anno. Standard & Poor's anche ci ha tagliato di mezzo punto, ci stimava fino alla scorsa tarda primavera 0,5 la crescita quest'anno, invece l'ha abbassata a 0, e ha motivato dicendo: abbiamo sopravvalutato gli effetti del bonus 80 euro e del pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione alle imprese. Il quadro è questo, sapete che c'è un braccio di ferro in corso tra Italia e Europa, con Renzi che anche all'ultimo Eurovertice venerdì e sabato ha detto: l'Europa non ci dia i voti, la manovra la decido io, non la decide la BCE, non la decide la Commissione europeo al Consiglio europeo. In questo quadro stamattina un quotidiano ha lanciato, tra i diversi temi di cui si parla in vista della prossima legge di stabilità, che quest'anno viene arretrata rispetto alle scadenze obbligate di legge, quindi in realtà viene presentata non prima del 15 di ottobre, aspettando un altro vertice europeo che il semestre italiano ha convocato per il 6 di ottobre, ma tra i tanti temi di cui si parla c'è un quotidiano che ne ha lanciato uno nuovo, ed è questo di cui ci occupiamo. E la domanda che vi faccio è: cosa pensereste se avvenisse? Qual è questo tema? Quello di un ulteriore ritocco dell'IVA. Ricordiamoci, l'IVA, l'aliquota generale ordinaria dell'IVA è già salita di 2 punti sotto il governo Monti e sotto il governo Letta, dal 20 al 22%. È vero, ne abbiamo parlato venerdì, che in questo siamo in un quadro di bassissima inflazione, e anzi di deflazione annuale del meno 0,12%, però è il caso di alzare ulteriormente l'IVA, visto come sta il quadro della domanda interna italiana, cioè la componente più pesante della perdita di PIL italiano in questi anni. Ecco, questa è la domanda, quindi se volete telefonare ditecelo, però ho pensato bene di chiamare i colleghi che hanno lanciato questo tema, il quotidiano era Il Messaggero, per farci e farvi spiegare bene di che cosa si tratta, quali potrebbero essere gli interventi, quali ritocchi, a che scopo, per incassare quanto, e soprattutto anche immaginando quali conseguenze su un'economia reale che resta in recessione, a quanto pare, dice l'OCSE, anche per tutto il 2014. Per questo è con noi, per parlarne, Luca Cifoni, un collega del Messaggero. Buon pomeriggio e grazie Luca di aver accettato l'invito. Ciao Oscar, buon pomeriggio. Allora, spieghi un secondo bene a chi è in ascolto rispetto alle aliquote oggi, che cosa stanno pensando, da quello che avete capito voi dal Messaggero, sulle aliquote IVA, cosa ci può attendere? Ma diciamo che io la definirei una tentazione del governo, una tentazione che è indotta da due fattori. Uno è quello a cui hai appena accennato tu, cioè la situazione di bassissima inflazione o di quasi zero o quasi deflazione. Dall'altra, che renderebbe la cosa in un certo senso gestibile, anche se poi appunto vedremo il come. E l'altro fattore è che nei nostri, diciamo, non tanto facili rapporti con l'Unione Europea, l'Unione Europea chiede da tempo, e su questo si è tornati anche al recentissimo Eurogruppo di venerdì, di spostare il carico della tassazione, quindi di tassare meno il lavoro, che vuol dire le imprese e i lavoratori dipendenti e chi lavora in genere, ed eventualmente, dopo aver tagliato la spesa, tassare un po' di più i consumi. E in questo ambito rientra questo discorso, perché in particolare in documenti precedenti più di dettaglio l'Unione Europea aveva detto che noi abbiamo sì l'aliquota alla principale ordinaria al 22, che è alta, però abbiamo delle aliquote ridotte, agevolate, che sono appunto, come sappiamo, al 10 e al 4%, che è molto importante perché è quella che si applica sui generi di prima necessità come il pane, la pasta, gli alimentari. E, diciamo, l'idea sarebbe proprio di intervenire perché da un punto di vista europeo questo tipo di agevolazioni sono viste come in qualche modo un'eccezione a un regime ordinario, appunto un'esenzione, un qualche cosa che andrebbe in linea di principio normalizzato come, diciamo, assetto della tassazione e che permetterebbe di spostarla appunto sui consumi piuttosto che sul lavoro. Questo è il quadro con cui siamo arrivati a questa idea che un pochino è presente nei corridoi del Ministero dell'Economia, del Governo in generale, anche se ovviamente andrà valutata con cautela. Quindi si tratterebbe di intervenire sulle due aliquote più basse, appunto quella del 4 e del 10, o per spostare dei beni che oggi sono al 4 verso appunto il 10, come piccolissima parte è già stato fatto in alcuni decreti recenti, per esempio ricorderete a proposito dei prodotti che si comprano, le macchinette, no? che stanno negli uffici, nei posti, quelle che distribuiscono alimentari, esattamente. Questa è l'idea, oppure un'altra idea di unificare queste due aliquote più basse a un solo livello, però un pochino intermedio, che potrebbe essere un 7-8%. Insomma, questo è l'ordine di idee su cui si sta lavorando. Secondo te, è una cosa che ha dei pro e dei contro. Ecco, secondo te quanto potrebbero sperare di ricavarci, tenuto conto che poi naturalmente se la domanda ulteriormente si abbassa, credere di adattare ai consumi precedenti aliquote che salgono è sempre un azzardo? Sì, è chiaro che dipende da quanti beni, quanti prodotti, beni e servizi sarebbero interessati da questo eventuale intervento, però non stiamo parlando di cifre colossali. Io penso che insomma le altre manovre sull'IVA erano intervenute per svariati miliardi e quindi in questo caso io penso che saremo nell'ordine di 2, 3, 4 miliardi, ovviamente teorici, perché come dici tu poi non si può ragionare a bocce ferme, bisogna vedere cosa succede nella pratica, insomma. Ora, l'idea fare una specie di mix e quindi portare i beni alimentari che oggi stanno al 4% e beni o servizi che oggi stanno al 10%, tipo gli alberghi, i trasporti e così via, però portarli all'8% potrebbe essere da un certo punto di vista, cioè poiché nel 10% ci sono diversi comparti dell'economia di un certo peso, il trasporto ferroviario, marittimo, gli alberghi, il turismo e così via, potrebbe quasi essere una cosa con funzione incentivante, perché per loro si abbasserebbe in realtà di 2 punti. Certo, no, ma infatti come dicevo tutto dipende, i numeri che ho dato prima sono del tutto ipotetici, perché tutto dipende da come la fai un'operazione di questo tipo. Potrebbe esserci anche un ribasso per alcuni settori. Dubito che il governo, se ci mette mano, vada a fare un'operazione certo. Come dire alla pari, ecco. Permettimi di dubitare il problema è che avendo noi ritoccato di 2 punti l'aliquota generale, in effetti c'erano molti paesi che avevano l'aliquota ordinaria intorno al 21%, quindi leggermente più elevata della nostra, ma non avendo nel frattempo, eccezione fatta per il bonus 80 euro e ricordiamolo il 10% dell'IRAP quest'anno, abbassato significativamente le imposte sul lavoro, che è la vera richiesta, no? Per cui l'Unione Europea insiste, questo tipo di intervento sarebbe, secondo quello che avete capito voi al MEF, in presenza di un'estensione e nuovi sgravi sul lavoro e su imprese, oppure solo in presenza della conferma degli 80 euro di quest'anno tale quale? No, si ragiona sicuramente su un'estensione, si ragiona intanto di rendere strutturali, che come tu mi insegni ha un valore di per sé, perché voglio dire il fatto che gli 80 euro non hanno funzionato in buona parte, o almeno in una certa parte, è dipeso dal fatto che la gente non li viveva come uno, li prendeva come un one off, una regalia che non ci sarà poi domani, esatto, che oggi c'è e domani potrebbe non esserci, e quindi quello ha sicuramente un valore, però il governo sta sicuramente pensando ad ampliare la parte di sgravio a beneficio delle imprese, intervenendo o sull'IRAP o intervenendo di nuovo sull'aliquota IRAP, oppure sulla componente IRAP che grava sul costo del lavoro, oppure intervenendo sugli oneri sociali, quindi sulla contribuzione a carico delle imprese con uno di questi strumenti. L'idea c'è, ovviamente il come, il quando. tanto dipenderà da quello che succederà nelle prossime settimane, però l'idea c'è sicuramente. Luca, uno dei temi collegati all'IVA, che come ci insegnano gli studi, li trovate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e studi anche della Guardia di Finanza, è un'imposta che regionalmente e provincialmente in Italia ha percentuali di evasione non solo a doppia cifra, ma in alcune parti d'Italia superiore al 40%, con punte anche oltre il 60% nel Mezzogiorno. Mentre ci parliamo tantissimo, scriviamo tantissimo degli effetti che poteva avere l'aumento dell'IVA sull'inflazione e ovviamente sui consumi, che ti risulta il governo, la finanza, l'Agenzia delle Entrate ha fatto passi in avanti per verificare agli aumenti di aliquote IVA qual è l'effetto sul nero nel nostro paese, sul sommerso? Ma diciamo che studi sull'ultimissimo ritocco verso l'alto non risultano, ecco, diciamo, fatte, esatto. Diciamo che tornando un attimo a quel discorso europeo, chiaramente non ci sono solo le aliquote agevolate, ci sono per esempio anche una serie di regimi di esenzione, chiaramente in una logica, se vuoi, un po' illuminista, però quale può essere quella dell'Unione Europea, meno esenzioni, meno agevolazioni ci sono, meno buchi si creano, essendo anche l'IVA un'imposta che funziona principalmente a livello continentale, anche per quelle famose frodi che ben conosciamo, per cui si fa in un certo paese, si comprano delle cose in un certo paese, si spostano, si fanno quelle famose cartiere, eccetera, eccetera. Esattamente. Insomma, quindi, però questo ci porta a un altro tema in realtà, cioè all'infinita somma di trattamenti agevolati per questa o quella lobby italiana, lo ripetiamo sempre, che comporta un minor gettito per oltre 250 miliardi nel paese, però i governi in questo, sono tre governi che ci sentiamo dire, essendoci già da anni uno studio di Verio Ceriani, ex Banca d'Italia, su questo molto dettagliato, i governi poi quando si tratta di prendere per il colletto le lobby che hanno l'esenzione agevolata, e non sto parlando ovviamente delle detrazioni per i carichi familiari e per la famiglia che sono più basse della media europea, sto parlando di moltissime lobby economiche, su quello i governi non si sono mai visti fino a questo momento. Non sarebbe più saggio fare quello? È difficile, se ti ricordi qualche mese fa si era pensato di, cosa minima però per dire, di intervenire sull'agevolazione IRPEF che riguarda le spese del veterinario. Sì. Lì è stato un macello, perché adesso lo capisco dal punto di vista di chi diciamo ha piacere di avere un animale in casa, però per dire, figuriamoci sulle cose più ben più consistenti, diciamo, e anche meno giustificate di queste. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:50, primi 52 secondi, ovviamente messaggi da rappresentanti delle categorie che stanno nella filiera alimentare, che lamentano una caduta molto accentuata dei consumi alimentari, soprattutto anche a basso reddito nel nostro paese, effettivamente è vero, questo è documentato, e quindi dicono non lamentatevi poi se ritoccando l'IVA questo dato ulteriormente colpirà tutto quello che riguarda i consumi alimentari degli italiani. Consentitemi solo, prima di tornare al tema, una brevissima riflessione sulla giornata di oggi. L'altro tema del giorno è l'inaugurazione dell'anno scolastico con i ministri nelle diverse scuole. A me ha molto colpito una cosa, mi ha colpito, lo dico criticamente, non voglio alimentare polemiche inutili, però il ministro Maria Elena Boschi in una scuola elementare si è presentata dicendo consegno il programma del governo ai ragazzi. Allora, la mia modesta opinione, non so come la pensate voi, è che ai bambini delle elementari, mentre io apprezzo che i ministri all'apertura dell'anno scolastico sottolineino con la loro presenza la fondamentale rilevanza del problema del capitale umano, migliorarne la qualità, eccetera, eccetera, e abbiamo iniziato a fare una serie di trasmissioni su poi questa riforma di cui parleremo per un anno intero, mi sembra del tutto fuori luogo che si presentino a dei bambini delle elementari con il programma di governo in mano. Per me un conto è l'approccio istituzionale, altro conto è la propaganda politica. Siccome la settimana scorsa già il ministro Giannini, che io peraltro conosco, stimo, mi ha molto colpito, disse ai dirigenti regionali scolastici dovete diventare alfieri della proposta, e no, i dirigenti generali scolastici non devono diventare gli agitprop di quella che fino a che non viene approvata e scritta come proposta è un'idea politica di una parte politica. Io la penso così, ho abbastanza orrore se avessi un figlio all'elementare di vederlo tornarmi a casa con il programma del governo, ecco. Però detto tutto questo, rispetto tutti, torniamo all'argomento del giorno, un possibile ritocco dell'IVA. Sentiamo come la pensa il nostro ascoltatore Alessandro da Macerata. Prego Alessandro. Sì, buonasera Oscar. Buonasera. Sì, innanzitutto volevo dire che secondo me da cittadino e consumatore sarebbe un'ulteriore manovra depressiva, no? Di noi cittadini, che ci verremmo gravati in un'ulteriore tassazione, perché quella alla fine è. E secondo me rappresenta anche l'ennesimo masochismo dell'elettorato italiano, nel senso che a ogni campagna elettorale promettono di ridurre le tasse, di levare gli sprechi, invece vediamo che la tassazione, come l'ICI, chiamata IMU, TASI, TARS, non si capisce più niente. Adesso l'IVA, che ricordiamo 3 anni fa era il 19%, sì, adesso la vogliono portare al 23%, quindi dagli impegni elettorali ogni volta traditi, e ogni volta mi sembra che l'elettore ci caschi, quindi le partecipate sono sempre lì, le pensioni d'oro sono sempre lì, cioè dove si va a tagliare su tutta quella l'humus di privilegi, non si va mai, ogni volta tassazione, ogni volta campagna elettorale, ogni volta promessa, l'elettorato ci ricasca. Allora Alessandro, io più che dire che condivido la prima e l'ultima, la tua parola, spero solo che qualcuno al governo ascolti, però mi pare di capire che l'aria è stata riprendere 6 mesi e di una legge di stabilità che ridurrà i tagli al minimo indispensabile. Io faccio una scommessa, secondo me il più dei famosi 20 miliardi viene dai 6 miliardi e mezzo che si risparmiano tra quest'anno e l'anno prossimo di interessi sul debito pubblico rispetto alla previsione degli spread, e quindi li dobbiamo integralmente a San Mario Draghi, più un paio di miliardi e mezzo di qua e di là, dicono IVA pagata sui debiti arretrati delle imprese, può saltare fuori un altro miliardo e mezzo fino a 2, insomma secondo me più di metà di quei 20 miliardi sono fatti così. Adesso sentiamo Luca Cifoni come la pensa anche lui, sentiamo rapidamente anche Mario da Modena però. Mario, come la pensi sull'IVA ritocchi in arrivo? Io penso, faccio una domanda, magari sembrerà da ignorante, ma non è proprio possibile pensare a un'IVA differenziata per valore di prodotto? Per valore, dici? Sì, cioè non questo oggetto è da X e questo oggetto no, ma l'automobile, c'è quella da 9.000 euro, c'è quella che costa come un appartamento. Allora non è possibile concepire che per un certo fascia di valore di prodotto che Mario, ho capito cosa dici, però qui bisognerebbe intenderci, perché questo è un imposto sul valore aggiunto che c'è nella trasformazione di un prodotto, è svincolata dall'idea del valore patrimoniale rispetto al reddito del consumatore. Sentiamo Luca Cifoni che ti risponde. Ma mi sembra un'idea un po' difficile, come diceva Oscar, per anche appunto come è fatta l'IVA, insomma comunque sarebbe un fattore anche astrattamente di molta complicazione. Diciamo che, tornando al tema generale, è chiaro che un'operazione come quella di cui abbiamo parlato, se proprio diciamo potesse essere credibile, dovrebbe essere accompagnata sicuramente da un forte sgravio visibile anche sul carico che grava su chi lavora, insomma. Te lo è chiaro che altrimenti rischia. Dico, da quello che sai dal MEF, non come opinione personale. L'idea c'è, ci stanno lavorando. Oscar, volevo soltanto aggiungere una cosa a questo proposito, volevo soltanto ricordare che questo tema, ci abbiamo anche ragionato insieme, ma la cosa oggi sull'IVA l'ha scritta mio collega Andrea Bassi. Sì, Andrea Bassi, prendiamo il giusto merito, grazie a Luca Cifoni, continuate su Radio 24, appuntamento a domani.